Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dal 26 marzo al 16 aprile inizia il percorso di vendita delle auto blu. Saranno all'asta, come alcune illuminate amministrazioni locali hanno già fatto. Per esempio, mi ricordo quella città, Firenze, così, che ha già venduto all'asta le auto blu. Lì le abbiamo vendute tutte, qui sono oltre 1500 secondo la Spending Review. Se riusciamo, raccontiamo anche chi sono i singoli ministri che le hanno utilizzate. Zoro può comprarsi l'auto che aveva utilizzato la russa, perché no? Ovviamente ci sarà un'asta online. Dunque venghino, signore e signori, vengono ascoltatrici e ascoltatori a comprare queste auto blu all'asta, probabilmente su eBay, poi vedremo quali saranno i punti vendita, se le volete anche con autografo magari di qualche politico che le ha utilizzate, che sa che abbiano poi un valore ulteriore di mercato rivendendole. Insomma, questa è una delle misure che ha annunciato oggi Matteo Renzi nel suo, quello che è stato definito più volte un super mercoledì, perché è stata non solo approvata la nuova legge, l'Italicum, la legge elettorale alla Camera, poi ci sarà tutto l'iter del Senato, ma il Consiglio dei Ministri ha varato diverse misure, a parte le auto blu, anche il taglio delle tasse sui redditi bassi e vari altri provvedimenti economici di cui man mano parleremo. Insomma, licenziate diverse misure. Voi siete rimasti soddisfatti? Avete avuto modo di sentire, di leggere, soprattutto di sentire, visto che è successo poco fa, quali sono tutti questi provvedimenti? Vi soddisfano? Avete sentito dei 10 miliardi da tagliare sui redditi bassi, quindi verrebbero circa 1000 euro in un anno per chi guadagna sino a 1500 euro. Bene, per voi, sempre per le vostre opinioni, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte-Roberta Giordano, oppure i messaggi al 349-238-6666. Bene, direi allora cominciamo come sempre la prima parte a riassumere la giornata. Renzi lancia la sua svolta buona, 1000 euro in più per chi guadagna fino a 1500 euro al mese, auto blu all'asta, accelerazione per i debiti della pubblica amministrazione, più tasse sulle rendite per ridurre l'IRA. Italicum via libera Amaro alla Camera, il PD rischia però di spaccarsi. Esplosione a New York, 2 morti, 20 di feriti, alcuni dispersi, la grande mela riviva l'incubo, ma il sindaco conferma è stata una fuga di gas. Rina, il boss racconta, in cella l'omicidio Borsellino, il telecomando per la strage era nel campanello del citofono. Schumacher, il decorso fa sperare, la famiglia parla di segnali di speranza e poi ci aggiorneremo anche per quanto riguarda la Champions League, anche se non ci sono più squadre italiane dopo la sconfitta di ieri del Milan. E partiamo quindi da questo mercoledì così impegnativo per Matteo Renzi. Avete sentito, via libera alla Camera per l'Italicum, anche se con un PD spaccato. Piano d'attacco per rilanciare l'economia. Non ha detto che cosa mangia, però, per tutto questo. Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. L'ho visto bello smagliante, bello in forma. Io ho chiesto a una sua biografa che cosa mangia per essere così. Matteo Renzi ha detto che mangia quelle famose barrette di cioccolato per bambini e le banane. Non so che alimentazione sì. Sia, però pare che abbia dei effetti. Insomma. Pare che abbia degli effetti, lo abbiamo visto, almeno da questo mercoledì da Leoni, qualcuno potrebbe dire. Un mercoledì iniziato quindi con il varo, il primo step della legge elettorale alla Camera, adesso vedremo quale sarà il suo esito al Senato e soprattutto nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio, con tante misure. Sicuramente lo anticipavi da studio, l'intervento sul cuneo fiscale, ma anche la componente del taglio dell'IRAP per le aziende di grande rilevanza. Renzi ha parlato di 100 giorni da qui ai prossimi, quindi di lotta per cambiare l'Italia e per arrivare al 1° di luglio con i conti a posto e un'Italia, lui l'ha definita, più leggera, 1° di luglio, quando l'Italia assumerà il semestre di presidenza dell'Unione Europea. Quindi tanti i provvedimenti, tra questi quindi 10 miliardi di taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 25.000 euro lordi l'anno, quindi lo dicevi giustamente da studio, 1.000 euro in media l'anno in busta paga per circa 85 euro al mese, e poi l'aumento delle rendite finanziarie, della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26% per permettere il taglio dell'IRAP del 10% alle aziende. E questo aumento della tassazione sulle rendite finanziarie però non riguarderà i titoli di Stato. Questo per quanto riguarda le misure da maggiore impatto nella vita di tutti i giorni. E poi, Roberta, sì, ricordiamo l'intervento sull'edilizia scolastica, il piano casa e la restituzione dei debiti accumulati dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione, insomma tante misure nel Consiglio dei Ministri che avranno e vivranno il loro momento cruciale nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Infatti diceva che entro giugno, insomma, grande rivoluzione. Poi vedo una cosa abbastanza sorprendente, ma insomma Susanna Camusso, leader della CGIL, ha detto oggi si può cominciare a festeggiare, avevamo detto che se c'erano i risultati avremmo festeggiato, e così insomma festeggia la CGIL, quindi evidentemente soddisfatta di quanto è stato annunciato dalle misure di Renzi. Ecco. Tra l'altro sì, i primi commenti sembrano tutti abbastanza positivi da parte delle parti sociali, critiche da evidentemente abbastanza prevedibili da quei partiti che sono all'opposizione di questo governo, quindi Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, che parlano di spot da parte di Renzi ma nulla più. In effetti alcune misure sono misure annuncio, perché entreranno in vigore dal 1 maggio, quindi entro aprile dovranno arrivare per il cuneo fiscale e per l'IRAP i decreti, i provvedimenti che il governo riterrà opportuno per mettere in opera questi annunci, però in effetti non dobbiamo aspettare poi più di tanto per vedere se Renzi ci rimetterà la faccia, come l'ha detto lui stesso, o se oppure le cose no, invece andranno in porto. Speriamo per noi che vadano in porto. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Grazie. Ciao Vincenzo. E poi vi ricordo, proprio in merito a quanto abbiamo detto, che domani il Sole 24 Ore esce con uno speciale di 12 pagine sulle decisioni del governo passate ai raggi X, che cosa cambia e chi risparmia. Andiamo all'estero, con gli Stati Uniti a New York, nel cuore della Grande Mela, è tornata oggi la grande paura. The only indication of danger came about 15 minutes earlier when a gas leak was reported. Lo sentite, il sindaco Bill de Blasio di New York ha confermato che l'origine dell'esplosione è avvenuta nella zona est di Harlem, a Manhattan. C'è stata una fuga di gas segnalata solo 15 minuti prima dello scoppio. Nel tardo pomeriggio ha fornito un bilancio provvisorio di questa esplosione, in cui sono crollate due palazzine, due morti, entrambe donne, 18 feriti e alcuni dispersi. L'esplosione è avvenuta intorno alle 9:30, alle nostre 14:30, ha causato il crollo, vi dicevo, di due edifici, in uno dei quali si era verificata una fuga di gas già 5 mesi fa. E l'America però è tornata a vivere la paura del terrorismo, che però in questo caso era infondata. E per quanto riguarda l'Ucraina, Obama dice no alla pistola puntata dalla Russia. Continua quindi la tensione e il braccio di ferro. Restiamo all'estero, torna alta la tensione a Istanbul, in Turchia. La polizia turca ha usato anche cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per impedire l'accesso a piazza Taksim a migliaia di persone che accompagnavano il corteo funebre di Berkim Elvan, il ragazzo in coma dalla manifestazione dei mesi scorsi, 19enne, morto ieri sera. Con la cronaca torniamo in Italia. Il telecomando usato per la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino con la sua scorta, sarebbe stato piazzato nel citofono dell'abitazione della madre del giudice. Questo è quanto emerge da intercettazioni di conversazioni in carcere di Tutori Ina. Il boss si vanta in queste intercettazioni della trovata, definendola un colpo di genio. E nell'estate del 1987 aveva ucciso il suo amante, ora esce dal carcere Giola Guerinoni, passata alla cronaca come la mantide. Era l'agosto di quasi 27 anni fa. Gigliola Guerinoni, 42enne gallerista di Cairo Montenotte nel Savonese, entra nella cronaca nera con il soprannome della mantide, l'insetto le cui femmine uccidono e divorano il maschio. La Guerinoni aveva ammazzato a martellate l'amante, il ricco farmacista Cesare Brin, che si era innamorato di lei e che per lei aveva abbandonato la famiglia e si era rovinato. Sullo sfondo del delitto c'è una storia di provincia, con sesso, ricatti e frequentazioni ambigue. Il cadavere di Brin sarà trovato dopo circa una settimana in una scarpata alla periferia di Savona, vicino a una discarica. L'arma del delitto invece non è stata mai rinvenuta. La mantide nel 1989 era stata condannata a 26 anni di carcere insieme a un complice, Ettore Geri, che dalla Guerinoni aveva avuto una figlia. E a distanza di 27 anni il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato estinta la pena, che sarebbe scaduta nel 2017, preso atto della buona condotta della donna, che oggi ha 69 anni. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una storia che arriva dal Veneto. Ha ottenuto la cittadinanza il marocchino a cui era stata rifiutata una settimana fa. Il sindaco di Ceneselli, vicino Rovigo, Marco Trombini, alla guida di una giunta di centrodestra, aveva deciso di sospendere l'atto perché non aveva saputo leggere il marocchino le poche righe necessarie al giuramento. Enzo Lodo lo ha intervistato. Molto semplicemente ci eravamo incontrati una settimana fa, più di una settimana fa, per decidere il giorno nel quale dare la cittadinanza. Mi ero raccomandato che imparasse bene anche la frase, che è molto semplice, perché giuro di essere fedele alla Repubblica e alla Costituzione, non è una frase complicatissima. Al momento della pronuncia non ha detto nessuna, cioè non è riuscito a, cioè proprio a essere chiaro in quello che leggeva. Quindi io presuppongo che se non è chiaro nel leggere, non è neanche chiaro nel capire quello che legge. Io vorrei premettere questo: sono quasi dieci anni che sono sindaco, ho già dato altre cittadinanze a cittadini nordafricani, a cittadini dell'ex Jugoslavia, e addirittura ho visto delle persone commuoversi dopo la lettura per essere così contente di essere diventate italiane, la foto sotto il gonfalone del comune insieme a me. Quindi che sia chiaro, io sono felice quando uno diventa italiano. Sindaco, lei si è allontanato perché doveva incontrare proprio adesso l'aspirante cittadino italiano, ci dica com'è andata. Allora, oserei dire tutto bene quel che finisce bene, insomma, è stato apprestato il giuramento, ci siamo spiegati, capiti, e quindi da oggi cittadino marocchino è anche cittadino italiano. Parliamo anche di Michael Schumacher, pare che ci sia speranza perché tornano a parlare di lievi miglioramenti le persone più vicine al campione. Invece miglioramenti per quanto riguarda le squadre italiane, proprio zero in Champions League, Milan ieri buttata fuori definitivamente. Che cosa resta? Squadre straniere, Dario Ricci, internazionali, come possiamo definirle? Eh sì, Roberta, in Champions dovremo goderci Messi e Ibrahimovic, che sono attualmente in campo, siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo, Barcellona-Manchester City ancora sullo 0-0, i catalani all'andata hanno vinto per 2-0, lo ricordiamo, Messi ha reclamato un calcio di rigore che sembrava esserci per un fallo di Lescott in area, non ha segnato. Mentre sono sull'1-1 Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen, tedeschi in vantaggio con Sam al sesto, il pari di Marquinhos al tredicesimo, ma all'andata in Germania i parigini guidati da Ibrahimovic hanno vinto, pensa, per ben 4-0, quindi la qualificazione non dovrebbe essere in discussione. Per le italiane bisognerà risentirci domani perché c'è l'attesissimo derby tra Juventus e Fiorentina, la gara d'andata, e poi il Napoli impegnato a Porto contro i portoghesi nell'andata appunto degli ottavi, ma di Europa League. E di questo parleremo allora domani, ma poi ci aggiorniamo invece sulle partite di Champions di questa sera. Grazie Dario Ricci. E allora vi dicevo, vi ha convinto o no questo piano di rilancio dell'Italia, del paese, dell'economia di Renzi? Vedo già dei vari messaggi. Maria Rosaria che dice: Renzi è l'Achille Lauro della Seconda Repubblica. Evidentemente si aspetta l'altra scarpa, Achille Lauro con i suoi dipendenti usava, no, dare una scarpa. Poi se otteneva certi risultati dava poi la seconda. Ma quale soddisfatto, dice Fabio Dalodi, è solo fumo negli occhi, sveglia italiani, Renzi è solo un dipendente della Germania. Tina scrive: ho ascoltato Renzi con gusto, come quando succhi una caramella golosa, un dubbio, sarà mica la sativa, così dice Tina. Ci sentiamo tra poco dopo la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo quali sono state le notizie principali del giorno, poi tra poco cominceremo ad approfondire la giornata di Renzi, prima un po' sul piano più strettamente, squisitamente politico, poi su quello più economico. Comunque vi ricordo i titoli. Renzi lancia la sua svolta buona, come l'ha chiamata, 1000 euro in più per chi guadagna fino a 1500 euro al mese, auto blu all'asta, accelerazione per i debiti alla pubblica amministrazione, più tasse sulle rendite per ridurre l'IRAP, e la leader della CGIL Camusso festeggia. Italicum via libera amaro alla Camera, il PD rischia di spaccarsi. Esplosione a New York, 2 morti, 20 di feriti, alcuni dispersi, la grande mela rivive l'incubo, ma il sindaco conferma è stata una fuga di gas. Rina, il boss racconta, in cella l'omicidio Borsellino, il telecomando per la strage era nel campanello del citofono. Schumacher, il decorso fa sperare, la famiglia parla di segnali di speranza. Ed eccoci con Stefano Folli. Caro Stefano. Ciao, come stai? A farci un po', sono qui che sono curiosa di capire il nostro esegeta, per l'appunto tu editorialista del Sole 24 Ore, come leggi adesso questo, stiamo sulla parte più politica, anche se è stato un mercoledì complessivo, un super mercoledì quello di Renzi, ma per quanto riguarda invece la legge elettorale, l'Italicum è passato alla Camera pur con molti mal di pancia, pur con il rischio dei franchi tiratori, il PD dice adesso però vediamo al Senato, soprattutto il capogruppo Speranza alla Camera ha detto sulla questione della parità di genere si ritornerà, gioco aperto in Senato. Sentiamo però Stefano che cosa ha detto sinteticamente Renzi sulla legge elettorale. La svolta della politica, il primo è semplice, l'avete oggi la legge elettorale, ci sono tanti limiti della legge elettorale, li conoscete tutti, grande discussione, però mai più larghe intese, chi vince governa 5 anni, candidati legati al territorio, stop ai ricatti dei piccoli partiti. Vogliamo dirlo che questa è una rivoluzione impressionante per l'Italia, grazie alle deputate e ai deputati che hanno votato questa legge elettorale. Con questa legge elettorale c'è un cambio strutturale, c'è un vincitore, c'è il ballottaggio sempre, comunque, in ogni momento. Entusiasta, insomma, Renzi, anche se con tutti i possibili trabocchetti e trappole che può incontrare sulla sua strada, Stefano Folli. Sì, ma certamente è un risultato politico importante. Io sono tra quelli che non sono affatto convinti della bontà di questa legge elettorale, però riconosco che l'aver portato in porto il risultato dopo lunghissime e antiche discussioni che non avevano mai approdato a nulla, insomma, per Renzi è una medaglia che si può puntare al petto. E a proposito di parte del PD che comunque ha detto adesso però ce la vediamo anche diversamente al Senato, qui alcune cose vanno modificate, sentiamo Bersani, ex segretario, che è stato piuttosto duro oggi. Insomma, io sono qui, ho fatto anche, diciamo, ancora una volta un'eccezione a questa fase di convalescenza per venire a votare questa legge, per fare il mio dovere, ma dico anche molto sinceramente che questa legge va migliorata al Senato. Poco da fare. Ci sono cose che non mi convincono. E credo che cosa, Bersani? Ma intanto il tema della parità di genere, vogliamo discuterne? Vogliamo discutere di questo tema delle soglie? Vogliamo discutere del fatto che magari un sacco di liste concorrono al premio di maggioranza di un partito senza prendere un deputato? Come le ripaghiamo? Attenzione a non mettere nel sistema degli elementi di corruttela. Quindi queste cose vanno migliorate. Che ti sembra di queste obiezioni di Pierluigi Bersani, Stefano? Beh, alcune hanno un loro fondamento, ma in generale a me sembra che Bersani si stia collocando come capo della minoranza interna del PD, ben intenzionato anche a fare una guerra politica a Renzi. Evidentemente si è accorto che il Partito Democratico sta andando incontro a uno spopolamento e che la pressione di Renzi è fortissima, è formidabile ed è in grado di modificare nel profondo i connotati di questo partito. Trovate, oggi è una giornata in cui Renzi ha ingranato il turbo, diciamo, nella sua azione, con tutte le riserve e le contraddizioni che questo comporta. E quindi dentro il PD evidentemente ci sono in questo momento dei problemi seri, o di farsi travolgere e di correre insieme alla corrente, oppure di organizzare una qualche forma di resistenza. Bersani mi pare che voglia organizzare un po' di resistenza, forse anche la Camusso lo vorrà fare, ecco, ci sarà un po' di riorganizzazione interna. Anche se Camusso ha detto poco fa che è entusiastico, cioè che festeggia, dice se ci sarebbero stati i risultati avremmo festeggiato e quindi oggi festeggiamo, eh. Vabbè, al momento stappa lo spumante. Vedremo. Senti, invece, no, secondo te, da parte di Bersani o da parte di Speranza, ora non so se vogliamo fare i malfidenti, la questione della parità di genere è sincera come lo stata, io credo, per le 90 deputate che trasversalmente hanno fatto questa battaglia, o è strumentale, come dice qualcuno, per cercare di affossare l'accordo Renzi-Berlusconi? Penso che sia la seconda che hai detto, penso che ci sia molto strumentalismo. Non da parte di quelle 90 deputate, no, però, secondo no, me, no, da parte di magari qualche maschietto credo, che gioca. Non ci credo. Ma io credo che, voglio dire, nessuno si era mai posto questo problema della parità di genere prima ad oggi, no? Quindi adesso tutta questa sensibilità a me dà l'impressione di essere un pochino strumentale, anche perché, diciamo la verità, un partito non ha nemmeno... No, voler essere precisi, non ha nemmeno bisogno di una legge codificata dello Stato se vuole applicare la parità di genere nelle sue liste. Ci sono le liste bloccate, non si può neanche scrivere voti di preferenza, nulla vieta al Partito Democratico di mettere il 50% di donne in Parlamento. Come ha promesso, e anche capilista, perché se non lo mette all'inizio della lista è chiaro che non vengono neanche elette. No, è capilista, come no? E quindi l'hanno detto, benissimo, lo facciano. Il problema della parità di genere in parte si può risolvere così, con un'iniziativa autonoma dei singoli partiti, poi decideranno gli elettori. Senti Stefano Folli, poi parleremo dopo con il vice direttore del Sole degli aspetti appunto, economici, delle misure, dei provvedimenti che ha lanciato oggi, però ci si chiederà delle coperture, in parte di qualche copertura ha parlato Renzi, ma le coperture per le riforme, la riforma elettorale, quindi poi quella del Senato, il titolo quinto, quindi quello sulle competenze tra Stati e Regioni, il rapporto tra le competenze tra Stato e Regioni, secondo te su queste cose ha le coperture? Perché poi effettivamente vive un po' Renzi questa contraddizione, detta più volte, il peccato originale di non essere passato attraverso le elezioni, quindi non essere completamente legittimato e di non avere neanche un programma che ha praticamente ha giocato una competizione con un programma opposto che potesse essere della destra, del centrodestra, no? Quindi il programma che lui porta avanti sarebbe stato scelto dai cittadini, cioè questo che vuole l'Italia, quello di cui ha bisogno l'Italia, si porta dietro un po' di contraddizioni Renzi, insomma. Sì, si porta un po' di contraddizioni, però a me sembra che stasera lui abbia annunciato un programma che ha molte caratteristiche di un programma di sinistra, perché è palesemente un programma volto a... Cioè il taglio dell'IRPEF, la ricerca dell'equità, di chi ha meno... Caspita, questa restituzione di soldi ai redditi bassi, se si farà, insomma, non abbiamo motivo di dubitarne, è un programma di sinistra. E qui ci sono anche elementi di diverso genere, però insomma la caratteristica principale è questa, ed è un programma palesemente rivolto a ottenere un buon risultato alle elezioni europee. Questo va dato atto a Renzi di non farne mistero di questo, no? L'ha ripetuto mille volte, che queste misure IRPEF andavano fatte in modo tale da dare agli italiani la sensazione esatta di questo appesantimento della busta paga prima del voto europeo. Poi non c'è riuscito, lo fa in coincidenza. Però io penso che da qui a maggio lo martellerà 100 volte, no? che sia stata questa riforma, perché gli italiani se ne ricordino al momento del voto. Comunque è un programma di sinistra, è un programma che viene fatto per ragioni diciamo generali, dare una spinta alla domanda interna, e per ragioni politico-elettorali. Lui ha bisogno di un successo alle europee per poter contenere i malumori del suo partito, tra l'altro, di cui Bersani stasera, come dicevamo, si è fatto interprete. Quindi secondo te poi anche questa cosa della riforma elettorale, a parte appunto la questione della parità di genere, il premio di maggioranza di cui parlava Bersani con le liste che partecipano a una coalizione e poi non si prendono, tra le contraddizioni, sì, poi invece magari non si prendono neanche... È un punto molto importante questo, certo. E poi al Senato, si è detto più volte, è abbastanza paradossale che si voti una riforma elettorale che poi non riguarda il Senato. Come andrà secondo te? La riforma del Senato? Ma a parte la riforma del Senato, scusami Stefano, però la stessa legge elettorale, quella che riguarda la Camera, dovrà passare anche al Senato finché c'è il Senato, certo, no? Certo. È stata promessa da varie parti una guerra senza quartiere al Senato, dove i numeri sono più stretti. E vedremo, adesso è difficile fare previsioni. Certo, la scommessa di Renzi è di riuscire l'onda diciamo di un risultato di un moto di opinione pubblica favorevole al governo, ecco, grazie anche a queste misure, questo grande tourbillon di misure economiche, lui spera che ci sia quel moto di opinione pubblica a favore del governo che rende più difficile per i sabotatori diciamo della riforma elettorale manifestarsi al Senato, e in questo lui è molto spregiudicato e gioca su due tavoli con grande abilità e con grande senso del tempo, non c'è dubbio. Quindi lui cercherà di utilizzare la spinta delle riforme economiche per far passare la legge elettorale al Senato, e poi avrà bisogno che il Senato approvi in tempi abbastanza rapidi il disegno di legge costituzionale, cioè il Parlamento nel suo complesso, il disegno di legge costituzionale che modifica i poteri del Senato. Questa è l'altra sua grande scommessa in questo momento. Sentiamo se non dovesse mai portare a termine queste riforme che si è prefissato, che farà? Non si è mai visto un percorso di riforme così corposo e significativo. E io aggiungo qui, prendendomene la responsabilità, che se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, non considero chiusa l'esperienza del governo, considero chiusa la mia esperienza politica, perché esiste un momento in cui un leader politico ha il dovere di indicare una visione. Non ho paura a rischiare tutto me stesso su un percorso di riforme che possa dire all'Italia di tornare ad essere in grado di volare. Insomma, che si condivida o no, è un entusiasta, è tonico, l'abbiamo trovato, è sì, sicuro tonico, di sé. È qui anche coraggioso, insomma, è uno che non ha paura di dire delle frasi anche molto impegnative, perché questa è una frase da cui non si può poi tornare indietro, naturalmente, no? Quindi quantomeno il Senato, adesso teniamoci, l'abolizione del Senato è una cosa, un Senato che cambia le sue funzioni e perde, diciamo, la possibilità di esprimere il voto di fiducia al governo è un'altra cosa, è più blanda, diciamo, un po' più soft. Lui ha parlato di questo, ha parlato della fine del bicameralismo perfetto, cioè della fine del voto di fiducia espresso anche al Senato sul governo, e questo non è esattamente, come dire, abolizione totale del Senato, però insomma è stato chiaro sul punto politico di fondo. Vedevo la Maria Elena Boschi alle invasioni barbariche, però adesso ho finito di parlare per qualche attimo, quindi ci prendiamo una pausa anche noi. Grazie Stefano Folli. Ciao, a presto. Ciao, ciao Stefano, buona serata. Sta parlando invece Luca Ricolfi, che sentiremo magari dopo, e invece noi ci prendiamo appunto questa pausa di pubblicità. Vedo ancora molti dei vostri messaggi, qualcuno che dice scusate ma i pensionati sotto i 1500 euro, e poi un ascoltatore scrive Mr. Bean in versione Vanna Marchi è spassosissimo, un po' meno per i cittadini, insomma c'è chi è diffidente, chi è un po' più entusiasta. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, abbiamo parlato prima con Stefano Folli della legge elettorale, del suo iter un po' inceppato, un po' ostacolato, anche se è passata alla Camera definitivamente, però si promette battaglia al Senato e non ha fatto certo il pieno comunque alla Camera. Adesso approfondiremo più gli aspetti quelli economici, le misure, i provvedimenti che ha annunciato oggi con grande enfasi. Prima però vi ricordo quali sono stati i titoli principali. Renzi lancia la sua svolta buona, 1000 euro in più per chi guadagna fino a 1500 euro al mese, auto blu all'asta, accelerazione per i debiti alla pubblica amministrazione, più tasse sulle rendite per ridurre l'IRAP, e intanto la leader della CGIL Camusso dice noi festeggiamo. Italicum via libera, amaro alla Camera, il PD rischia di spaccarsi e si annuncia battaglia al Senato. Esplosione a New York, 2 morti, una ventina di feriti, alcuni dispersi nel crollo di 2 palazzine, la Grande Mela rivive l'incubo, ma il sindaco conferma è stata una fuga di gas. E poi Rina, il boss racconta in cella l'omicidio Borsellino, il telecomando per la strage era nel campanello del citofono, e Rina parla di un colpo di genio. Ed è notizia di pochi istanti fa, testimoni palestinesi riferiscono di una serie di bombardamenti aerei israeliani sulla striscia di Gaza. E prima di salutare il prossimo ospite vorrei leggere alcuni dei tanti messaggi vostri che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di come avete affrontato questi annunci di misure oggi da parte di Renzi. Nicola dice Renzi un buon venditore di fumo, può lavorare nelle televendite in TV. Daniele, io aspetterei un po' prima di festeggiare, dice Arturo. Cambiare in 4 mesi una cultura radicata da 60 anni lascia più di una perplessità. Al momento hanno votato una legge elettorale che è un imbroglio, hanno allargito una mancia a partire da maggio a fine dicembre, per chi già lavora poi si vedrà. Con questi fatti concreti ho la forte impressione che Renzi stia facendo una campagna elettorale per le europee. Francesco dice che sia la volta buona. Maurizio scrive ma festeggiare dopo decenni di disastri per un paniere di buone intenzioni, se l'andazzo cambia davvero i benefici saranno per le prossime generazioni, questa ormai è persa. Pablo, quello che a me fa venire più di un dubbio non sono le molteplici cose che Renzi ha detto che farà, ma la frase avrei voluto far vedere qualche aumento in busta paga prima delle elezioni europee, ma faremo vedere le carte durante la settimana delle votazioni, ma questo mi è sfuggito. Tommaso, Renzi mi ricorda Berlusconi quando tolse l'IMU. Maria scrive vorrei prima vedere cosa resta davvero dopo l'effetto annuncio. Vittorio, loro festeggiano sempre tutti. Stefano, aspettiamo a festeggiare. Fabio, sveglia, aumenta 80 euro, poi te li frega da una parte tipo aumento della benzina. Insomma, Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 mi sembrano tutti un po' sulle difensive, un po' diffidenti, no? C'è un certo scetticismo aleggiante. Beh, ma è così, cioè Renzi costringe tutti a fare una gran fatica ogni volta che parla, a distinguere fra cosa c'è di concreto in quello che dice e cosa invece sono solo annunci. In realtà ha fatto una gran parte di conferenza stampa annunciando dei provvedimenti, lasciando però la suspense finale se su questi provvedimenti erano stati approvati dei decreti e dei disegni di legge oppure erano soltanto dei progetti. E alla fine ci siamo accorti che in effetti buona parte delle cose che annunciava erano dei piani, dei programmi, dei progetti, ma non c'erano decreti e disegni di legge. Quindi vedo che anche tu lo interpreti come qualcosa che rimane sul vago, però cominciamo a sentire alcune cose che ha detto, poi sentiremo dopo Cottarelli sulla spending review perché parte di queste coperture dovrebbero venire proprio da lì. Sentiamo, chiedo al nostro tecnico Gianmarco, Renzi quando dice la svolta buona, questo era il suo slogan, insomma il nome di tutto il piano, diciamo. Abbiamo anche scelto un hashtag per questa conferenza stampa, vedo qualcuno che sugli hashtag ci lavora, cioè che la svolta buona, appunto, la svolta buona come inizio come messaggio che vogliamo dare a questa iniziativa di oggi. Ecco, nella comunicazione è sempre molto brillante, dicevamo anche prima, ma quello che è sembrato l'aspetto più importante, più incisivo, quello a cui è dato anche più importanza Matteo Renzi, è stata la questione ridare un po' di equità sociale, riequilibrare la situazione di chi ha meno soldi, di chi percepisce stipendi più bassi. Per la prima volta si mette una cifra significativa in tasca a queste persone. Qual è il limite da cui noi, diciamo, su cui noi ci attestiamo? Il limite sono 25.000 euro lordi, che vuol dire più o meno, perché poi dipende, circa 1.500 euro al mese netti. A queste persone, noi, queste persone sono i destinatari del nostro intervento, quindi non sono soltanto i ceti meno abbienti, ma è un po' di ceto medio. E tu prendi 1.400 euro al mese netto, stai dentro questo mondo qua. Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano. Che vuol dire all'anno? Poi naturalmente saremo nel dettaglio con le buste paga, ma sono circa 1.000 euro all'anno che vengono recuperati da parte dei singoli lavoratori. Ti convince questa misura, Fabrizio Forché? Ma nel merito ci sarebbe da discutere, nel senso che io continuo a credere che se tu hai 10 miliardi da poter mettere a ridurre pressione fiscale, in questa fase dell'economia conviene metterla per ridurre l'IRAP, per ridurre la tassazione che grava sulle imprese e sui posti di lavoro, perché la grande emergenza è quella di non continuare a perdere posti di lavoro e anzi cercare di crearne. Più che dare 100 euro, ma non saranno probabilmente 100 euro. Sui 85, 80-85 sì. Mi sembra. Sì, quindi tu nel derby IRAP-IRPEF eri per l'IRAP. Io penso che noi abbiamo una certezza che le imprese con questo sistema fiscale non sono competitive e difficilmente potranno reagire alla crisi creando nuova occupazione se tu non gli dai un segnale sulla pressione fiscale. E quindi diciamo l'emergenza non è dare 70-80 euro in busta paga a una comunque fetta limitata di italiani che rischia di essere un po' una mancia elettorale, ma cercare appunto di agire sui nodi strutturali che frenano la creazione di posti di lavoro oggi in Italia. Questo lo credo fermamente. Comunque diciamo sempre che anche questo obiettivo di ridurre l'IRPEF per ora è solo annunciato, perché è un piano che Renzi ha annunciato. Però ha detto che dal primo maggio in busta paga, cioè, ha detto che hanno approvato un progetto che va in questa direzione. Ma non è stato approvato un disegno di legge o un decreto in questa direzione e non lo è stato fatto perché per ora sulle coperture, sulle famose coperture, cioè sulle risorse necessarie a finanziare questi provvedimenti, ancora il governo non ha le idee chiare, non ci sono ancora certezze e quindi per ora si approva un progetto, poi quando si avranno le certezze sulle coperture entro evidentemente il primo maggio, bisognerà approvare i provvedimenti di legge, un decreto a quel punto dovrà essere. diversa. Sentiamo un attimo la ministra Boschi, se riusciamo a cogliere le invasioni barbariche. Che comportasse l'essere al centro d'attenzione, da Daria Bignardi, dettaglio, da come è vestita, ogni cosa che dice. Era preparata a tutto questo? Ma non è una questione di potere. Io sto cercando di fare bene il mio lavoro, sto cercando di impegnarmi, di lavorare seriamente, perché è quello che ci chiedono i cittadini, è quello per cui ci danno fiducia, è quello per cui anche ci pagano, è il nostro lavoro. Io sto cercando di farlo in modo serio. Oggi ho presentato una proposta per la riforma del Senato, del titolo quinto in Consiglio dei Ministri, che poi sarà aperta al confronto, alla discussione con tutti i partiti nei prossimi giorni. Parliamo di abolizione delle province, è prevista l'abolizione del CNEL, quindi degli elementi forti di rottura, di cambiamento. Oggi alla Camera, per la prima volta dopo 8 anni, abbiamo approvato una nuova legge elettorale. E non ti mi piace la ministra Boschi, no, Fabrizio Forché? La politicamente ha dimostrato di essere brava, secondo me, in questo anno, perlomeno che l'abbiamo vista sullo scenario della politica nazionale. Ora dovrà dimostrare di essere brava anche come ministro. Oh, permettimi di dire che questo è un test che bisognerà fare in poche settimane a molti di questi ministri. Renzi ha portato una squadra del tutto nuova, qualcuno aveva già dimostrato nella precedente attività politica di essere magari valido o politicamente, devono dimostrare di saper muovere le pedine dell'amministrazione, saper governare, saper fare appunto i provvedimenti di legge, insomma tutte cose molto complicate sulle quali un po' di esperienza aiuta, però è vero che magari aiuta anche la gioventù e quindi la capacità di cambiare, di incidere in modo nuovo sulle dinamiche di governo. Senti Fabrizio Forché, prima parlavi delle coperture e del fatto che ci devono essere anche poi dei decreti legge. Sentiamo per l'IRPEF, l'ha annunciato, poi sentiamo anche se questo lo trovi convincente. La copertura di questi 10 miliardi è totalmente fatta dal governo sulla base del risparmio di spesa, sulla base dei numeri che adesso vado a indicarvi a grandi linee, ma che vi danno il senso della ampiezza di questa copertura di macroeconomici generali, ma senza l'aumento di tassazione. Questo è il punto fondamentale. Il commissario Cottarelli per la Spending Review oggi aveva parlato che in quest'anno si dovrebbero risparmiare, se ricordo bene dai dati, sui 3 miliardi, tra i 3 e i 5 miliardi, e Renzi ha detto quindi non ci sarà bisogno di aumentare tasse da qualche altra parte per la copertura del taglio all'IRPEF. Fabrizio. Ma in realtà Renzi, anche già nell'intervista, nel colloquio che abbiamo pubblicato stamattina sul Sole 24 Ore, si spingeva fino a 7 miliardi nel 2014 dalla Spending Review. Cottarelli è stato molto più prudente, ha detto che 7 è un'ipotesi limite, ma che più probabilmente appunto bisogna attestarsi sui 3 miliardi. Renzi, mi pare di capire, pensa di stare in un range che si spinge intorno ai 5 miliardi dalla Spending Review. Però da oggi è emersa una novità interessante. Renzi ha annunciato anche altre coperture che mi sembrano più vaghe, però è tornato su un punto, cioè quello che lui intende utilizzare un margine di flessibilità sul deficit dal 2,6% al 3%. Noi oggi andiamo verso un deficit PIL di fine anno al 2,6%. Se sfruttiamo questo margine fino al 3%, che ricordiamo è il limite europeo, si liberano circa 6 miliardi e dispari. E questo chiaramente è un bel tesoretto da mettere a copertura dell'intervento sul cuneo fiscale. Fino a ieri eravamo tutti molto scettici sulla possibilità da parte dell'Europa di darci un via libera su questo. Ho visto che stasera in conferenza stampa anche il ministro Padoan, che tutti consideriamo molto attento nei rapporti con l'Europa, ha detto che secondo lui un margine con l'Europa, magari non per arrivare al 3, ma per spingerci verso, quindi magari fare 2,8, 2,9, quindi guadagnare comunque 4-5 miliardi di copertura, secondo lui è possibile. Questo può essere un piccolo tesoretto da poter utilizzare utilmente per la copertura. Fabrizio, abbiamo ancora un minuto, poi ha parlato di lavoro, ha parlato di scuola, però ti voglio far sentire invece anche un taglio sull'IRAP che ha annunciato. Oggi noi annunciamo dal 1° di maggio una operazione anche sull'IRAP che, attenzione, seguitemi, questa si finanzia con un aumento della tassazione su altre realtà. non si toccano i titoli di Stato, quindi no bot, tranquilli, non si toccano i titoli di Stato, ma la tassazione sulle rendite finanziarie passa dal 20 al 26, valore previsto 2,6 miliardi di euro, e si riduce l'IRAP alle aziende private del 10%, valore 2,4 miliardi di euro. Abbiamo 40 secondi ancora, Fabrizio Forché, un commento tuo su questo aiuto anche alle imprese. Ma che ci fossero 2-3 miliardi destinati all'IRAP non è una cosa che ci sorprende, è una cosa che più o meno avevamo capito, che si coprisse con le rendite finanziarie, non l'avevamo capito. Invece la novità annunciata è decisamente oggi. Io credo che intervenire sull'IRAP per margini così ridotte non produce un effetto particolarmente efficace, mentre invece intervenire sulla rendita finanziaria è sempre un po' a rischio. E mi ha sorpreso, questo deve davvero sorprendere, il fatto che lui annuncia un aumento della tassa sulla rendita finanziaria non facendo subito il decreto, ma anche qui rinviando, diciamo, l'intervento a un decreto successivo, quando invece da sempre noi sappiamo che su questo tema specifico bisogna intervenire. Bisogna annunciarlo nel momento in cui lo fai, per evitare alterazioni sul mercato mentre il decreto deve ancora arrivare. Va bene, questo sin qui. Grazie Fabrizio Forché. Grazie. Ciao e buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in 6 secondi ve le ricordo adesso. Renzi presenta il piano 10 miliardi a 10 milioni di italiani a maggio, taglio dell'IRAP dalle tasse sulle rendite finanziarie, entro luglio lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione. L'Italicum passa alla Camera, giochi aperti al Senato, governo non fa il pieno, il PD spaccato, apertura a modifiche. E poi la spending review di Cottarelli, tagli a sedi RAI, via il CNEL, contributo alle pensioni per nuovi posti, possibili 3 miliardi nel 2014. L'esplosione a New York, 2 morti, una ventina di feriti e alcuni dispersi. La Grande Mela rivive l'incubo del terrorismo, ma il sindaco conferma che in realtà è stata una fuga di gas. E poi Schumacher, il decorso fa sperare, la famiglia parla di segnali di speranza. Tempo di Europa, parliamo dell'Europa, il nostro appuntamento con Europa 24. Lentamente ma continua a crescere l'uso delle energie rinnovabili in Europa. Nel 2012 è arrivato al 14,1% contro il target, il livello del 20% fissato per il 2020. L'Italia è uno dei paesi in cui si è registrata una delle crescite maggiori a partire dal 2004. Lo dice Eurostat, secondo cui soli 3 paesi, Svezia, Bulgaria ed Estonia, hanno già raggiunto gli obiettivi per il 2020. L'Italia si sta muovendo comunque molto bene, come conferma Davide Tabarelli, direttore di Nomisma Energia, al microfono di Cristina Carpinelli. Europa 24 notte. Verso le europee. Noi non abbiamo niente da invidiare al nord Europa e siamo messi molto bene, perché siamo i quarti in Europa per la produzione di fonti rinnovabili. Però... perché abbiamo tanto idroelettrico. Siamo il primo paese al mondo per fotovoltaico, in termini di percentuale sul totale. La Germania è seconda col 5%, noi siamo al 7%, poi in termini assoluti siamo secondi solo la Germania per fotovoltaico, perciò abbiamo speso molto ma dobbiamo essere molto contenti. Ecco, e quali sono adesso gli sviluppi possibili per il futuro, per i prossimi anni, per riuscire ad ottenere anche ma di più? Che funzioni quello che auspichiamo tutto, cioè che come tutti gli istruttori che sono stati incentivati, che questo settore riesca a camminare da solo, che è tutto da vedere, insomma non sarà una cosa semplice, perché i costi rimangono alti e poi c'è un problema in Italia, di, come in tutta Europa, di eccesso di offerta, c'è ostilità del territorio, costano ancora tanto, hanno sempre bisogno degli incentivi. Gli incentivi non ci sono più, però allo stesso tempo insomma il sistema c'è, ecco, aspettiamo di vedere delle cose, degli impianti che camminano senza bisogno di incentivi. Possiamo fare ad esempio i grandi impianti ancora su terra nel sud per il fotovoltaico, per l'eolico c'è tantissime possibilità in mare aperto, tra l'altro l'eolico ha dei prezzi, dei costi più bassi, ecco, può permettersi di non avere più facilmente, di non avere gli incentivi. E poi ci sono le biomasse, bioenergie termiche, anche lì c'è molto da fare, anche lì è un boom Ecco, però poi lei ha citato l'eolico, ad esempio, nel caso dell'eolico molto danno è stato portato da chi invece ha truffato in questo settore. Un paese che in questa crisi, con prezzi così alti dell'energia, dei comportamenti fuori dal mercato, fuori dalla legalità, cioè non è una sorpresa in particolare per l'Italia. È veramente, però io dico, abbiamo più di 500.000 impianti, 500.000 pratiche, a volte molti contenziosi sulle rinnovabili, cioè c'è stata una rivoluzione verde, tutto sommato le cose sono andate relativamente bene, ecco, c'è stato qualche problema di legalità, ma visto brutalmente in termini percentuali è una, sono delle percentuali molto minime e marginali, che non superano l'1-2%. Qualche settimana fa era venuta fuori una ricerca sempre a livello europeo nella quale si sottolineava il fatto che l'Italia stesse investendo poco nella ricerca. No, noi abbiamo questo problema che investiamo in generale poco in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie rispetto ad altri paesi in termini di ammontare totale sul PIL. E poi abbiamo un sistema industriale che era quello che investiva, che è in profonda crisi, pertanto abbiamo meno ricerca complessiva. Tuttavia è uno di quei settori dove c'è ancora, che ha tenuto meglio, sicuramente quello delle rinnovabili. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. In quest'ultima parte torniamo a parlare dell'ex ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri, perché è indagata dalla procura di Roma per false dichiarazioni al PM in merito alle sue telefonate a Ligresti, con Antonino Ligresti, fratello di Salvatore, vi ricordate, è arrestato con le figlie Giulia e Ionella nell'ambito dell'inchiesta su Fonsai, anche se è probabile che il procedimento sia comunque archiviato, vero Monica Ceravolo? Ciao Monica. Sì, ciao anche a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, è probabile che venga archiviato perché a quanto pare non ci sono gli estremi diciamo penali nell'inchiesta che è stata trasferita a Roma dalla Procura di Torino. È chiaro che si parla di un'ipotesi perché l'ultima parola spetta al giudice per le indagini preliminari. Certo. Senti, che cosa erano dovute queste, quali erano queste incongruenze che hanno riscontrato? Allora, le incongruenze, diciamo, si può parlare di un peccato veniale. La Cancellieri, interrogata a Torino subito dopo che le telefonate si sono verificate lo scorso mese di agosto, ha detto di essere stata chiamata da Salvatore Ligresti, ad Antonino Ligresti, scusate. Al contrario, agli atti della Procura di Roma, che ha chiesto i tabulati telefonici, risulta che è stata lei a chiamare. Parlo di peccato veniale perché lei in quel momento era guardasigilli, era il ministro della giustizia, quindi una sua interferenza in una vicenda così delicata quantomeno è moralmente discutibile. L'altra incongruenza riguarda uno scambio di messaggi che ci sarebbero stati sempre con Antonino Ligresti, medico, medico e amico della Cancellieri. Ebbene, quanto pare non si è trattato di messaggio ma di una telefonata durata diversi minuti, e quindi è questo che è stato contestato ad Anna Maria Cancellieri, cioè di avere dichiarato una cosa non vera. Quindi rimane, sappiamo, ricordiamo la lunga polemica, poi anche il rischio di mozione di sfiducia, alla fine poi fu salvata la ministra, esatto. Però è rimasto, diciamo, come dicevi tu, un po' il problema morale e politico, poi anche se adesso non fa più parte del governo, però vedremo appunto se ci sarà l'archiviazione o meno anche da un punto di vista del procedimento penale. Monica Ceravolo, ti ringrazio. Grazie e a ti voi, saluto. Una buona serata. A te, ciao Monica. Qui ci si ferma perché, sapete, sentite la sigla che si alza, prima che si apra la botola sotto la sedia. Io vi lascio poi per ricordarvi più tardi quali sono stati i fatti principali.